Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi parliamo di un altro libro finalista al premio Strega, Le colpe dei padri, scritto da Alessandro Peressinotto e pubblicato da PM. Un libro che ha per protagonista un uomo, diciamo, di 46 anni che lavora a Torino, è un manager, è un ingegnere, insomma ha una vita apparentemente felice e realizzata con una compagna anche più giovane di lui. Ci puoi descrivere bene chi è Guido? Come te lo sei immaginato? Guido Marchisio è un personaggio che incarna tutto ciò che io detesto. E quindi per me è stato abbastanza difficile raccontare il suo personaggio. Certo, il lettore potrebbe chiedersi perché mai uno scrittore deve creare un personaggio che lui stesso detesta e che i lettori sicuramente detesteranno. È un manager, ma uno di quei manager incaricati delle ristrutturazioni industriali, che significa cassa integrazione e licenziamenti. Ha una compagna molto più giovane, ma è perché ha appena lasciato la moglie. Questa compagna è anche la sua preda di caccia, è anche il suo trofeo, la sua esibizione. Perché racconto questo? Perché in fondo questo personaggio rappresenta un certo modo di fare industria oggi, un certo modo di rappresentare l'economia. E il romanzo è la storia di Guido Marchisio che incontra un suo doppio, in realtà non lo incontra, ma gli viene riferito che è esistito negli anni 70 un bambino che gli assomigliava moltissimo. Guido Marchisio ha gli occhi di colore diverso e un vistoso neo sullo zigomo, questo lo rende abbastanza inconfondibile. Chi sarà mai questo bambino che gli assomigliava così tanto, ma che viveva, contrariamente a Guido che è cresciuto in un quartiere borghese, che viveva in un quartiere molto popolare? Il tarlo di questo doppio, di questo sosia, comincia a aprire una piccola crepa nella corazza di Guido Marchisio, nel suo modo di concepire l'economia, e determinerà alla fine, posso anticipare alla fine perché la ritroviamo nella prima pagina, determinerà un crollo totale. Nel romanzo si segue un po' questa parabola discendente di Guido dal punto di vista appunto psicologico, personale, per questa rivelazione che gli viene fatta, ma in contemporanea si segue anche un po' un crollo di quello che è l'ambiente sociale che lo circonda e soprattutto l'ambiente dell'industria italiana. C'è una critica sociale in questo tuo romanzo? Sì, ovviamente in quanto romanzo la critica sociale passa attraverso le storie delle persone. E il modo in cui ho descritto Guido Marchisio è un modo che passa attraverso le differenze con le persone che incontra. Direi che in questo romanzo i personaggi minori sono più importanti forse del protagonista, perché in questa sua ristrutturazione industriale lui è incaricato praticamente di chiudere uno stabilimento. In questo suo processo incontra gli operai, incontra i dipendenti, incontra delle madri che gli chiedono di non essere messe in cassa integrazione, e tutti questi personaggi rappresentano quella parte dell'economia che qualcuno dice che dobbiamo eliminare, ma è la parte che con il suo amore per il lavoro ha reso possibile il successo dell'industria italiana e non solo. Guido rappresenta invece quella parte dell'industria che vuole far finta di nulla e che pensa che il successo sia determinato dal taglio delle frange inutili. Ovviamente il doppio di Guido, questo Ernesto, arriverà per fargli cambiare idea, anche se Guido non sarà mai un eroe positivo. Guido è il classico tagliatore di teste. Durante questi incontri con le persone che deve licenziare o mettere in cassa integrazione ha qualche ripensamento? Insomma, c'è uno spiraglio di cambiamento? In realtà non saranno le persone che incontra a metterlo in crisi, o a metterlo abbastanza in crisi, sì, un po' lo metteranno in crisi. Sarà più l'incontro con il passato, un passato che crede non suo, che è il passato degli anni 70, quelli che liquidiamo un po' frettolosamente come anni di piombo, ma che sono anche gli anni di forti prese di coscienza degli operai, sono gli anni in cui la gente comincia a creare i comitati di quartiere, i comitati di scala. Il confrontarsi con questo passato servirà a Guido per aprirsi di più alle istanze di queste persone, finché tutto quello che lui stesso faceva gli risulterà intollerabile. E per me sono anche un modo per raccontare quell'Italia degli anni 70, che io ho vissuto da bambino, ma che ricordo molto bene, e il libro per raccontare quello che dico all'inizio del libro. Il libro si apre con il dialogo tra due amici e uno di questi dice: ci vorrebbero le Brigate Rosse. Dice: la gente comincerà a sparare. Il mio libro porta una data di chiusura che è il 7 gennaio 2013, pochi mesi dopo davanti a Montecitorio qualcuno sparerà. Lo scrittore è un menagramo, lo scrittore peggio ancora un istigatore? Non lo credo. Credo che sia un interprete di quello che la gente soffre più che di quello che la gente pensa. Ed ecco che raccontare quel passato, che è un passato che ritorna, cioè le stesse ragioni di insoddisfazione, quel senso di partecipazione frustrata che si provava negli anni 70, lo si sta provando oggi. Il senso di crisi, che non è solo la crisi economica, ma il senso di non contare nulla, lo si sta provando anche oggi. La gente che sparava negli anni 70 era gente che in questo modo pensava di contare. Nessuna giustificazione storica agli anni del terrorismo e nessuna giustificazione storica alla violenza neanche di oggi, ma un grande avviso di pericolo. Il romanzo è ambientato a Torino, quindi gli anni 70 che descrivi sono gli anni 70 della fabbrica, della Fiat, soprattutto degli operai, ma anche degli impiegati che lavoravano nella grande fabbrica. È la Torino che tu personalmente ricordi? È la Torino che io ricordo e che ho conosciuto. Io sono figlio di una famiglia operaia e il grande sogno familiare era fare di me un capo reparto Fiat, quindi io ho fatto l'istituto tecnico della Fiat e le scene di fabbrica che racconto nei primi anni 80 sono scene che io ho vissuto come studente di questo istituto tecnico che veniva portato in fabbrica per vedere come erano i percorsi produttivi e che si scontrava con la generazione precedente di operai che vedevano nei tecnici i nemici, e in parte avevano ragione, cioè con la mia generazione che si rompe un patto di solidarietà intergenerazionale. Gli operai sapevano che la fabbrica sarebbe stata anche la casa dei loro figli. Questo non succede più con gli anni 80, arriva l'automazione. Ma anche l'automazione è un grande tradimento. In quegli anni io in fabbrica vedevo i robot e tutti ci dicevano: il futuro è in questi schiavi elettronici, meccanici. Poi l'economia ha scoperto che in Cina o in India esistono degli schiavi umani molto più economici dei robot e la robotica stessa si è fermata. Io credo che l'automazione industriale, non dico che sia ferma agli anni 80, ma avrebbe potuto essere molto più sviluppata se non si fosse scoperto appunto che in alcuni mercati del lavoro si potevano ridurre in schiavitù gli esseri umani e quindi gli operai che negli anni 80 avevano paura dei robot e dei tecnici in realtà sbagliavano il loro obiettivo, ma noi non lo sapevamo e avremmo avuto bisogno di avere paura di altri schiavi che poverini non c'entrano nulla, ma quindi questo è una parte del racconto autobiografico che discende da quello che io ho vissuto. La colpa dei padri è uno dei libri in corsa per il premio Strega. Come vivi l'idea di partecipare ad un premio così importante nella letteratura italiana? Beh, non vorrei compararmi a Guido Marchisio, il mio personaggio assolutamente antipatico, ma pensando che io un po' sono il narratore che prende la parola in questo romanzo, pensando all'ambiente dal quale provengo, che è l'ambiente della fabbrica, l'idea di essere candidato al premio Strega può solo darmi un grande entusiasmo e mi fa ricordare quale doveva essere il mio destino, un destino di fabbrica, e quindi indipendentemente dagli esiti del premio Strega, il fatto di essere in corsa per il premio Strega è un grande riconoscimento personale ed è anche una grande occasione per stare insieme ad altri autori. Io ho sempre concepito i premi come un momento non per correre contro qualcun altro, ma per correre con qualcun altro. E a partire dal primo incontro che è avvenuto a Benevento, l'incontro di presentazione dei 12 finalisti, ho trovato questo spirito di corsa in comune, questa voglia di trovarsi durante la cerimonia e dopo la cerimonia a chiacchierare di quello che facciamo. Per cui sensazioni molto positive, indipendentemente dall'esito della corsa. Grazie ad Alessandro Perissinotto, ora in libreria con Le colpe dei padri, pubblicato da PM. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.